Benvenuti su Radio Bawalla, siamo qui con I Pagliaccio e parliamo ancora di A Night Like This Festival, questo festival rock indie di musica indipendente che si terrà questo sabato 20 luglio nel contesto di Chiaverano. Saremo lì con una postazione mobile di Radio Bawalla e ora siamo in diretta in collegamento con Alessandro Chiorino, un membro dei Pagliaccio. Ciao Alessandro. Esatto, ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie mille, grazie della possibilità, in attesa di questo festival di sabato, quindi in pieno di prove, eccetera, cose del genere. Insomma, si suona e si sta bene. Siete in piena preparazione, insomma. Bene. Sì, assolutamente sì. Ascolta, partiamo subito dalla presentazione del gruppo. Allora, chi sono I Pagliaccio? Da chi è composto il gruppo? Allora, I Pagliaccio sono un trio biellese, quindi in un certo senso sabato a Chiaverano noi giocheremo un po' in casa, perché siamo non distanti, appunto, non distanti dalla zona di Ivrea, di Chiaverano, eccetera. Nasciamo a Biella 2 anni fa. Uh-huh. E siamo appunto, la line-up ha avuto un po' di cambi di formazione, perché a quanto pare portiamo abbastanza fortuna anche lì a suonare con noi, perché ne abbiamo avuti due, un primo batterista e poi un violoncellista che hanno suonato per un po' con noi e poi sono emigrati all'estero, a vivere all'estero, quindi secondo me stanno ampiamente meglio di noi. Dove sono andati? Il primo è andato in Inghilterra, il primo batterista è andato a vivere in Inghilterra, invece allora abbiamo detto, vabbè, dai, tariamoci su una situazione un po' più facile, un po' più acustica, devo okay. Prendere un violoncellista, e una volta messo tutto il violoncellista decide di andare a vivere in Brasile. E lui sicuramente sta meglio di noi, per cui insomma abbiamo dovuto ripartire, ma questo è stato concomitante poi all'uscita del nostro disco, per cui la formazione che ha, diciamo, presentato il disco e quindi iniziato il tour di presentazione del nostro album è rimasta quella lì. Poi adesso, diciamo, sempre abbiamo ritirato i passaporti, nessuno va più via e siamo, diciamo, un power trio. Okay. Rock, ecco, abbiamo poi fatto anche un tastierista, che è il ragazzo Raffaele Danello, che ci ha prodotto il disco al Grid Studio, ha suonato un po' le tastiere con noi, poi non ce l'ha fatta starci dietro, allora lo abbiamo chiuso in un computer in una base, quindi siamo chitarra, basso e batteria, Alessandro, Marco e Marco, e con sequenze e programmazioni elettroniche per le parti elettroniche. Bello, quindi un power trio molto classico, però con dell'elettronica. Esatto, il power trio rock, con l'approccio è anche abbastanza quello, l'attitudine è abbastanza rock and roll, soprattutto nei live. Mi viene in mente Jimi Hendrix, per citarne uno. Se forse non così rock and roll puro e classico, diciamo, perché comunque siamo italiano, siamo vicini anche al pop, però sì, è quell'attitudine lì, quella sul palco soprattutto. Ok, quell'approccio lì. Il nostro disco è un disco pop, però nell'esecuzione live passa molto anche il nostro background, che ovviamente è molto rock, cioè abbiamo ascoltato un po' di tutto, di tutti i generi del rock, e dal vivo sicuramente passa anche quella cosa lì. Io direi meno male, perché secondo me è anche bello che ci sia qualche cosa in più magari rispetto al disco, no? Così uno può ascoltare un disco e poi certo. Vedersi un live e avere ancora un'esperienza differente da un live, è quello che è la cosa più importante, sicuramente. Ascolta, da cosa deriva il nome del gruppo? Pagliaccio. Ma guarda, deriva dal fatto che ci sembrava quella del pagliaccio, al di là di essere un'espressione più volte utilizzata da noi, poi in generale nel linguaggio comune, ecco. Per noi era una figura particolarmente rappresentativa di quello che facciamo noi, cioè quello di fare appunto musica pop che sia facile all'ascolto e immediatamente intelligibile da almeno quasi tutti, melodicamente piacevole, sì. E che però abbia poi dei risvolti, cioè un po' come il pagliaccio è un po' quella figura che nasce per far ridere, ma spesso lo si vede anche con un retrogusto un po' amaro, un po' drammatico, no? Certo. E allora è un po' secondo me quello che passa dalle nostre cose. I testi sono anche lì apparentemente scanzonati, però trattano di temi anche seri, anche pesantini, diciamo, come per esempio l'immigrazione clandestina, piuttosto che la solitudine, piuttosto che la dipendenza dal gioco d'azzardo, in tutto condito con un linguaggio molto facile, però c'è una seconda chiave di lettura, ecco, il pagliaccio ci dà un po' quel tipo di immagini, quel tipo di idea lì. Molto molto interessante, devo dire che non mi aspettavo questo tipo di risposta. Ascolta, bene, sono contento di averti sorpreso. No, mi hai colpito, non vedo l'ora di sentirvi a Night Like This Festival. Infatti ci vedremo sabato, certo. Ascolta, una domanda più tecnica, com'è il vostro setup live quindi? Raccontavi di questa elettronica. Sì, guarda, beh, dipende un po' dai contesti e da quello che ci viene richiesto dalla situazione, perché come tu immaginerai, la situazione della musica live ultimamente, negli ultimi anni, non è propriamente rosea, per cui non è così facile proponere un live in giro. Noi devo dire che fortunatamente, con nostra immensa gioia, siamo andati un po' in controtendenza, perché quest'anno, da quando è uscito il disco, siamo riusciti a fare più di 70 live, quindi una cosa molto grossa, stiamo girando tantissimo. State girando molto. Però questo ci ha... Stiamo girando molto, sì, ormai stiamo andando sulle 10 date al mese, che almeno che è insomma, una cosa notevole di questi tempi. Siamo soddisfatissimi perché siamo partiti lamentandoci e intristendoci perché non riuscivamo a suonare live, poi ce li siamo un po' conquistati, quindi questa è anche una cosa che insomma, è un po' il dramma di tutti i musicisti, che dici sì, ma suonare live è difficile, eccetera, poi insomma magari Insomma, si batte 70 un po' live, di più, cioè, complimenti. ce la si fa. Sì, Sì, sono tanti, quindi ma in ben tutta venga, Italia, però immagino. come sì, in tutta Italia, diciamo che ci manca il sud Italia, ecco, abbiamo fatto fino al 100, siamo stati più volte a Perugia, siamo stati nelle Marche, siamo stati a Roma più volte, in Toscana, in Emilia, eccetera, poi ovviamente il nord che è più casa nostra e abbiamo cercato di Ok. fare ogni modo, adesso siamo sempre lì a suonare, siamo tanto tanto tanto in giro in questi mesi, infatti è anche difficile ormai magari fermarsi un attimo e scrivere qualcosa di nuovo, ci arriveremo. Comunque ti stavo dicendo che tutte queste opportunità che abbiamo avuto ci hanno comunque portato a sviluppare diverse tipologie di live, come per esempio un live elettrico, che è quello che ci rappresenta di più, con l'elettronica di cui ti parlavo prima, con il setup fatto con la chitarra elettrica, il basso elettrico, eccetera, ma abbiamo anche rodato ormai un live acustico, semiacustico, l'abbiamo fatto un po' di tutte, cioè io sono andato da solo con la chitarra, siamo andati chitarra e basso, siamo andati chitarra, basso e caon, elettrici, Sì, abbiamo fatto un vi po' di adattate al tutte, ma contesto. è giusto. Sì, e secondo noi è anche giusto un po' così, quando ci sono i pezzi e quando tu sei convinto almeno che ci siano i pezzi, li puoi portare fuori in vesti diverse, anzi delle volte è anche più bello per ragione che ti vede vedere magari per chi ti segue, soprattutto vedere cose differenti. E ti devo dire che il live che porteremo a Chiaverano sabato è un live quantomeno semiacustico e siamo anche contenti di poterlo fare perché comunque tutto sommato si è rivelato ultimamente anche una bella occasione. Per noi ci piace, a noi piace molto intrattenere un rapporto col pubblico, la facilità della nostra musica, della nostra comunicatività, viene proprio fuori in maniera più facile, no? Nei contesti un po' più intimi che in un Sì, contesto appunto acustico, eccetera. Dai palchi sì. più grandi, in elettrico è un po' più difficile farlo. Per cui devo dire che ci sguazziamo abbastanza bene, quindi siamo contenti anche di poter suonare in acustico. Quindi sabato a Chiaverano saremo chitarra, basso acustico e caon pecori, quindi una cosa abbastanza semplice. Ho capito. Quale sarà il vostro palco? Lo sapete già? E sarà appunto il palco acustico, semiacustico, non so se abbia un nome specifico definito, ma non sarà appunto il main stage, perché poi Ok, un tipo ok. di espressione anche di tipo più cantautorale, eccetera, come il nostro, che richiedono un setup meno complicato, sono state indirizzate su quel tipo di palco, che peraltro l'altro anno io ero stato al festival come pubblico, avevo visto, in effetti è un palco sempre molto frequentato, cioè si crea un'atmosfera molto bella, quindi spero che risucceda anche quest'anno, insomma, perché Sì. era una bella situazione. Ne sono sicuro, credo che sarà un'ottima occasione quest'anno. Non vedo l'ora di sentirvi dopo aver parlato con te e aver scoperto un po' cosa c'è dietro questo nome, il Pagliaccio. Quindi ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e ci vediamo sabato all'evento A Night Like This Festival a Chiaverano. Grazie mille. Ciao!